sua roccia non cadrà, perché il Signore la sostiene e durerà. Verranno le prove, dispiaceri, il vento con forza soffierà, la vita che spera nel Signore durerà. La casa fondata sulla sabbia crollerà, perché non ha forza e radici non durerà. La pioggia cadrà e la fiumana d'impeto la trascinerà, la casa fondata sulla sabbia crollerà. Su Cristo fondato la mia vita e non cadrò, sulle sue parole eterne che forza mi dà. Il cuore e la mia carne posso venir meno, ma Dio è la forza del mio cuore, la mia salvezza in eterno. Su chi stai fondando la tua vita, tu lo sai. Se sulla roccia o sulla sabbia si vedrà. Nel giorno delle difficoltà, senza speranza tu sarai, la casa fondata sulla sabbia crollerà. E non cadrò, sulle sue parole eterne che forza mi dà. Il cuore e la mia carne posso venir meno, ma Dio è la forza del mio cuore, la mia salvezza. Su Cristo fondato la mia vita e non cadrò, sulle sue parole eterne che forza mi dà. Il cuore e la mia carne posso venir meno, ma Dio è la forza del mio cuore, la mia salvezza in eterno. In eterno. Alleluia, gloria a Dio.